Buongiorno Palestina, siamo qui oggi in studio con Rashid Khudairi, che è coordinatore della comunità di solidarietà della Valle del Giordano, e con Luisa Morgantini. Quindi vorrei innanzitutto appunto domandare a Rashid, in qualità della sua qualifica, che cosa ci può dire dell'attuale situazione in termini di insediamenti, espropriazioni, accesso alle risorse idriche di questa zona della Palestina che rappresenta ben il 30% della Cisgiordania? The Jordan Valley area first, it's one of the main important and strategic areas in the West Bank and Palestinian country. La Valle del Giordano è una delle zone, delle aree più strategiche, più importanti per Israele adesso, ma è stata anche per noi palestinesi. And this area, before the 67, before the Israeli occupied it, it was more than 320,000 Palestinians living there, and it used to be the main Palestinian breadbasket, and even the main Palestinian water resources is in the Jordan Valley. Cioè, la Valle del Giordano nel 1967, durante l'occupazione militare israeliana, era in realtà la più grande area della Palestina ed era considerata il cestino del pane della Palestina e vivevano 320.000 palestinesi. And after the Israeli occupied the West Bank area, now of course they was focusing about the Jordan Valley area, and now there's still just only 56,000 Palestinians living in the Jordan Valley. E dopo l'occupazione del 67, Israele ha cominciato a ritenere appunto questa una propria zona strategica e oggi ci troviamo con la presenza di 56.000 palestinesi. And of course that's happened because the Israeli strategy of colonizing and kicking all our people outside of the Jordan Valley, especially with the water situation, like the Israeli national company, they control the whole water in the area in the Jordan Valley. E naturalmente appunto Israele la considera una zona molto importante, soprattutto per esempio per le risorse idriche, e infatti in quella zona la Mekorot, l'azienda israeliana dell'acqua, ha praticamente sottratto l'acqua a noi. And this company, they built 29 water wells in the Jordan Valley, and now the only way our people they can have the water is to travel from Area C, from Jordan Valley, to the Palestinian area A. La Mekorot ha costruito 29 pozzi di acqua che ha sottratto ai nostri pozzi e noi per avere l'acqua adesso, noi che viviamo ancora in quell'area, siamo costretti ad andare dall'area C dove viviamo, nell'area B o A per prendere acqua. And of course, they're using other policy to colonizing our people, like the Houghton machine, the make part of Jordan Valley as a closed military firing zone area, and the Israelization the whole Jordan Valley with the rest of the West Bank. E naturalmente però la politica non è soltanto quella di sottrarci le risorse idriche e l'acqua, ma anche quella di demolire le nostre case, di definire intere zone come zone militari e quindi impedirci in realtà di vivere. Even in areas in the Jordan Valley, like our population, until now we are not allowed to have the right of education, like building a school or university, and the same the health service, we are not have allowed to access to any health service. E naturalmente in questa zona C, dove Israele, dopo gli accordi di Oslo, hanno avuto l'intero controllo della zona, sia amministrativo che militare, noi non abbiamo nessun diritto a costruire scuole, ad avere il diritto all'educazione, perché tutto questo viene impedito da Israele. Senti, dopo quello che ci hai detto, Rashid, potresti dirci quali sono gli scopi e l'attività che viene svolta dalla comunità di solidarietà della Valle del Giordano? Okay, we are as a Jordan Valley Solidarity grassroots movement and Palestinian leader and of course international solidarity and support. We start since 2003 and our aim is to support, to protect our people to resist and staying in Jordan. Noi ci siamo formati nel 2003 e da quel momento il nostro ruolo, il nostro obiettivo è quello di cercare di proteggere la popolazione palestinese e di offrire loro dei servizi che vengono costantemente negati da Israele. And we have different kind of campaign. First we support the right of education by supporting and building a new school in area C. Per esempio, il diritto all'educazione, che per noi è fondamentale, quello che stiamo facendo è organizzare e costruire piccole scuole nell'area C. And we support to build 60 schools in area C, 2 healthy clinics and replying and building any house Israeli destroying in the area C. E naturalmente, per esempio, noi abbiamo costruito 6 scuole nell'area C, piccole scuole naturalmente, e anche cercare di dare supporto con l'acqua sempre nell'area C. And even we're focusing about the right of water by building the new pipeline water from area B or to area C to support our people to have the water, which mostly for potable water for the house or for agriculture. Stiamo anche cercando di aiutare la popolazione dell'area C a prendere acqua nell'area B o nell'area A per riuscire a fare in modo di avere almeno un po' d'acqua. And one of the main structure or material we use to build this kind of structure, we're using the mud bricks from the earth and straw, mixing with the water and trying this bricks to build this kind of house structure or school. E siccome c'è proibito costruire case, usare cemento, eccetera, noi costruiamo queste case facendo noi stessi mattoni nel modo tradizionale, come facevamo prima le case nella Valle Giordano, e cioè usando sabbia, usando paglia, e le facevamo con le nostre mani, tanto per riuscire a fare sia le scuole che per esempio che le case. Bene, adesso uno stacco musicale e poi riprendiamo con l'intervista a Luisa Morgantini. Allora, riprendiamo un'intervista anche con Luisa Morgantini, presidente di Associazione Palestina, che conosce da decenni la storia di questa terra, la condizione della Valle del Giordano, e stamattina ha avuto anche un incontro con la Commissione Pace del Comune di Firenze, di cui fra le altre cose ci parlerà. A te, Luisa. Grazie, grazie moltissimo ad Osservatorio Parziale di Firenze e a Radio Wombat che ci sta ospitando, quindi un grazie di cuore. Questa mattina vi è stata una riunione molto importante, io penso, organizzata dalla Commissione di Diritti e Pace del Comune di Firenze, con la presenza del Presidente della Giunta. E con l'assessore Martini e con la presidente della commissione Pace Diritti, Donata Bianchi. Un momento importante perché Rashid Kudeiri ha parlato e ha raccontato la verità, ha detto fatti quello che sta succedendo nella Valle Giordano. E tra l'altro, noi abbiamo organizzato questo incontro e un tour. Di Rashid, che stiamo andando nelle diverse città italiane perché è importante oggi salvare la Valle del Giordano. Salvarla da che cosa? Salvarla dal fatto che Israele, che ha un piano di colonizzazione non soltanto della Valle del Giordano, ma in realtà di tutti i territori della Cisgiordania, sta continuando in modo molto fermo e deciso l'evacuazione della popolazione del Valle Giordano. Diceva Rashid, 320.000 erano nel 67, 56.000 ma anche meno oggi, tra l'altro dislocati interamente o quasi interamente a Gerico, quindi una città grossa. E ogni giorno sperimentano per esempio distruzioni di villaggetti, sottrazioni di acqua, sottrazioni di elettricità ed è una vita terribile, una profonda ingiustizia quella che i palestinesi vivono quotidianamente nella Valle Giordano. Oggi Israele vuole annettersi la Valle del Giordano. Senti Luisa, visto che hai parlato appunto di espulsione dei palestinesi, tu avrai le date molto più aggiornate, ci puoi dire invece gli insediamenti che esplosione diciamo hanno avuto, no? Dall'inizio fino ai giorni nostri? Nella Valle del Giordano oggi ci sono 39 colonie, 39 colonie che però utilizzano praticamente il 95% della terra perché costantemente viene confiscata, costantemente le colonie avanzano. Questo solo nella Valle del Giordano, ma in tutta la Cisgiordania. Se nel 1992-93, quando ci fu l'accordo di Oslo, i coloni erano 150.000 in tutta la Cisgiordania, compreso Gerusalemme Est, oggi i coloni sono più di 650.000. Quindi là dove dovrebbe esserci lo Stato di Palestina, cioè sui territori occupati nel 67 con Gerusalemme Est, capitale della Palestina, in realtà tutto questo non esiste più perché i coloni sono dentro i territori occupati, 650.000. Sappiamo tutti, almeno noi, che la Valle del Giordano è strategica per quanto riguarda il fatto di essere un territorio con abbondante acqua. Ecco, visto che il problema dell'acqua è vita per gli esseri umani, ci puoi dire com'è la condizione di accesso alle risorse idriche, che cosa hanno fatto nel tempo gli israeliani? So che esiste una compagnia, la Mekorot, che gestisce questo, ce ne puoi parlare? Grazie. In realtà le risorse idriche, come diceva prima Rashid, vengono sottratte semplicemente perché laddove vi erano pozzi d'acqua che venivano usati dai palestinesi oppure fonti che venivano usate dai palestinesi che scorrevano, perché appunto la Valle Giordano è molto ricca di acqua, di falde acquifere, basta pensare che i palestinesi che producevano davvero diverse quantità di verdure, frutta, eccetera, facevano quattro raccolti all'anno, quindi un'area molto, molto ricca. Quello che ha fatto Israele è molto semplice: ha tolto e sottratto e ha rovesciato in questi container di cui parlava Rashid tutta l'acqua, sottraendola completamente alla sovranità dei contadini palestinesi o dei beduini, i quali non possono scavare pozzi. Se appena scavano un pozzo, arrivano i soldati che glielo distruggono. Questo anche grazie a un accordo che è stato fatto a Oslo, nel tutta la parte che riguarda le questioni economiche. In realtà vi sono dati ben precisi. Mentre gli israeliani con quell'accordo possono scavare pozzi a una profondità enorme, i palestinesi possono scavare invece pochissimo e quindi i palestinesi sono senza acqua. In più, i palestinesi cosa fanno? Devono pagare l'acqua perché la devono acquistare e vanno con contenitori, tanks a prendere l'acqua perché non ce l'hanno corrente, ovviamente, anche se vedono sotto i loro piedi scorrere le tubature dell'acqua che poi vanno nelle colonie dove invece sono le piscine, dove c'è il verde, però non possono raccogliere. Facciamo un altro stacco musicale, breve, e poi riprendiamo per finire la trasmissione. Bene, siamo di nuovo qui e quindi do di nuovo voce a Luisa Morgantini. Parlavamo prima dell'acqua. Rashid, che è qui con noi, in Italia io gli ho chiesto: Rashid, ma cosa ti è piaciuto di più dell'Italia? Che cosa ti viene in mente? La prima cosa che ti viene in mente? E lui ha detto: l'acqua. C'era tanta acqua, pioveva tanto. Io dicevo: sì, però per noi non è tanto bello perché eravamo anche a Venezia, eravamo in Valtellina, eravamo a Torino, pioveva, pioveva. E ho detto: guarda, non hai idea di quanto sia bello. Ho fatto la doccia e per la prima volta, invece di dover contare, centinelliare l'acqua, chiudere, spegnere, sono riuscito a fare l'acqua con gioia. Che bello. Ecco, uno non si rende conto, ma non avere l'acqua è una tragedia, ma anche non solo per la parte che fa impressione la Valle Giordano, non è soltanto l'acqua che non c'è per le persone, ma l'acqua che non c'è per le pecore. L'acqua che non c'è per le capre, l'acqua che non c'è per gli animali. E tu vedi questi animali che soffrono in un'area in cui in estate arriva ai 45 gradi e non hanno acqua. Infatti, un'altra delle cose con altri contadini che sono venuti qui, quando hanno visto le pecore nostre nei prati, cioè, come sono fortunate queste pecore. E sembra una cosa banale, ma Eh invece è no, la dice no, quotidianità, è questo certo. vivere senza acqua, vivere senza risorse. E tra l'altro in questo momento la Valle Giordana è importantissima anche perché appunto Netanyahu ha condotto la sua politica per le elezioni, dicendo e promettendo agli israeliani che la Valle del Giordano sarebbe stata annessa ad Israele. E Trump, attraverso Pompeo qualche giorno fa, ha dichiarato con assoluto disprezzo del diritto internazionale che le colonie che sono state costruite all'interno della Cisgiordania, nella Valle del Giordano, sono legali. Che le colonie devono restare e quindi ai palestinesi non resta più nulla perché le colonie, il territorio di cui parla Netanyahu, di cui parla Trump, è il 60% di quel 22% in cui avrebbe dovuto sorgere lo Stato di Palestina. Quindi siamo in una situazione veramente drammatica perché la comunità internazionale non risponde, risponde flebilmente a questo disprezzo del diritto che viene mostrato in modo esemplare da Trump, ma anche da Netanyahu e anche da alcuni nostri ex ministri che con molta nettezza si schierano con Netanyahu. Adesso che Netanyahu viene accusato, si dice che Netanyahu è sotto un complotto. Quindi credo che sia molto importante che noi andiamo avanti per questa cosa. Io volevo scusarmi perché prima, quando ho parlato di Luca Milano, ho detto che era presidente della giunta. In realtà è presidente del Ah, consiglio ok. comunale, Sì, è vero. però volevo di nuovo dire che era stata molto importante questa mattinata con loro perché penso che ci saranno anche degli impegni concreti che si prenderanno, così come ha chiesto anche Rashid Val Giordano. Quindi essere accanto ai contadini, ai palestinesi, non soltanto alla Val Giordano, ma anche fare delle azioni concrete per sostenerli. Se posso dire una cosa di ciò che mi ha emozionato stamattina, che ero presente anch'io, all'incontro con la Commissione Pace, è stato quello che ha detto a un certo punto Martini, in maniera molto semplice ma sentita, quando ha detto dobbiamo chiedere scusa al popolo palestinese. È stato un momento veramente, penso, toccante per tutti, perché certe volte non c'è bisogno di tante parole, basta solo una parola per far capire veramente la responsabilità storica che abbiamo anche su questo. Bene, a questo punto ci salutiamo, ringraziamo veramente di grande cuore Luisa Morgantini, Rashid Kouebedi e vi salutiamo al prossimo mercoledì. Sì, c'è qualcosa che si può fare qua, ovviamente anche in Italia è tutto molto apprezzato e può sicuramente sostenere la nostra causa, vanno benissimo le mozioni, le risoluzioni dei consigli comunali, dei consigli a livello locale, vanno benissimo i documenti di base, ma dovete sapere una cosa, il 90% delle persone come Rashid che ha deciso di rimanere a vivere nella sua terra, sotto le condizioni terribili che ha mostrato stamani con i numeri, con i fatti, con le fotografie, ha deciso di rimanere per la terra, che sia per vivere o per morirci. Quindi questo è il punto. Loro l'hanno deciso, quella è la loro terra e rimarranno lì. Viene commesso un crimine ogni ora, quindi non si può tacere sul fatto che tutto ciò che l'occupazione israeliana sta facendo confligge con le leggi internazionali e c'è bisogno di molto, molto di più. Quindi benissimo anche i gemellaggi con Betlemme, benissimo le scuole a Gerusalemme Est, ma non basta. Tutto questo non è sufficiente. Riguarda, come tutte le persone qua hanno rilevato, non riguarda solo i palestinesi, riguarda dei principi universali. Quindi probabilmente è qualcosa che dovrebbe, scusate se mi accalorno, dovrebbe smuovere un po' più le attività delle persone e delle istituzioni che dovrebbero scendere veramente in campo, perché si parla delle vite delle persone, cioè Rashid io penso che tra qualche giorno tornerà a vivere lì, come Luisa ci raccontava, è stato picchiato di recente, la sua preoccupazione non era di morire, era di non riuscire a venire in Italia a raccontare tutto questo. Quindi si meritano probabilmente un'azione e un coinvolgimento maggiore.